Emergenza fascismo. Gli attentati in Italia. 22 gennaio 2018. Militante di Forza Nuova uccide la moglie, spara sui passanti e alla fine si suicida. L'uomo, una guardia giurata, si è sparato alla testa dopo un pomeriggio di follia. La figlia è scappata ed è riuscita a salvarsi. Panico tra la folla, ferite 5 persone sul posto carabinieri e polizia. L'uomo era stato già denunciato 3 volte dalla moglie per violenze ed è ritratto in alcune foto con i simboli di Forza Nuova. L'organizzazione prende le distanze. È stato sì per un periodo nostro sostenitore, ma mai militante attivo.